Continuiamo anche quest'oggi in questa che può sembrare come una storia, un racconto della risurrezione, con un'altra puntata, diciamo così, perché la Chiesa ci insegna la fede soprattutto con la liturgia. Perché quello che noi preghiamo, noi anche lo dobbiamo credere. E prendo ancora, siccome la liturgia non è composta solo dalla parola di Dio, le letture, ma è composta anche dalle orazioni, dal canto all'inizio, al canto dopo il Vangelo, allo spezzare del pane e così, vorrei prendere la prima orazione di oggi, che sottolinea un aspetto che purtroppo non è più toccato nella fede della Chiesa, o quasi più toccato. Ed è che il sacrificio di Gesù sulla croce, cioè la Santa Messa, ci libera dai peccati. È strano, vero amici, che non si parli più di peccati? No, ma non è strano, perché se ci allontaniamo da Dio e riteniamo di essere autosufficienti, non ci sono più peccati. Al massimo ci sono gli sbagli. Al massimo, ma quanto è difficile anche riconoscere gli sbagli. Riconoscere che abbiamo peccato poi non lo fa più nessuno. Eppure guardate che questo è un tema presentissimo nella liturgia. Poco fa abbiamo recitato il Gloria e nel Gloria si diceva: Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. E dunque chiediamo davvero che il Signore ci tolga i peccati, come dice la prima orazione. Dio onnipotente ed eterno, che hai redento il tuo popolo con il sangue del tuo Figlio unigenito, disperdi l'opera del demonio e spezza le catene del peccato. Così che noi non siamo più suoi schiavi, schiavi del demonio che è l'autore della vita. Ecco il sangue di Cristo, che cosa fa? Toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, annuncia il Signore quando mostra al popolo l'ostia santa prima della Santa Comunione. E questo avviene, il peccato viene tolto col sangue di Cristo. Per questo il sangue di Cristo è potentissimo contro il demonio. Oh, cari amici, mi sembra di dire cose che sono fuori dal mondo, perché non si dicono più nella Chiesa che c'è il demonio e che il sangue di Cristo scaccia il demonio. Se noi sapessimo, se conoscessimo la storia della Chiesa, per esempio Santa Caterina da Siena, se conoscessimo altri santi, ci sono litanie del preziosissimo sangue, nessuno sa più che cosa siano. La potenza del sangue di Cristo. È il sangue di Cristo che umilia e scaccia il demonio. Io negli esorcismi lo invoco tantissimo. Il sangue di Cristo ti umili, ti bruci, dico al maligno, e ti respinga nell'inferno. Bene, amici, allora noi facendo la Santa Comunione riceveremo il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. Chiediamo, ospitando Gesù nel tabernacolo del nostro cuore, che scacci Satana e i peccati che pretenderebbero di imporre il loro diritto su di noi, che invece siamo salvati dal sangue di Cristo.